Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Senta, lei cosa ne pensa dell'intervento militare in Libia? È favorevole? Di quale intervento? Perché mi pare che dall'intervento umanitario e di interdizione affinché non ci fosse un massacro si sta rischiando di passare a un intervento di colonizzazione e questo è pericoloso. Noi vogliamo che sia mantenuto e rispettato rigorosamente il mandato e i limiti del mandato dell'ONU e per questo chiediamo che nelle prossime ore il Parlamento si riunisca e il Governo riferisca in Parlamento per farci sapere in base a quale direttiva e quale assunzione di responsabilità di governo sono stati mandati anche i nostri aerei, posto che un rappresentante del governo, anzi una coalizione che sostiene il governo, la Lega, dice che quella autorizzazione il governo stesso non l'aveva dato e quindi vogliamo capire di più e meglio e comunque sia, per quanto ci riguarda, noi sappiamo che fino all'altro ieri Obama, Zapatero, Berlusconi e mezzo mondo intero lo abbracciavano a Gheddafi, contro cui noi siamo senza se e senza ma oggi senza se e senza ma appunto gli fanno la guerra. Sì. Noi sappiamo che nel mondo ci sono tanti dittatori, sappiamo che bisogna fermarlo, ma sappiamo che questo bisogna farlo all'interno dei limiti e del mandato ONU e non andando a fare a chi è più forte o come ha detto la russa, non siamo secondi a nessuno, vogliamo far vedere che siamo pure bravi pure noi. Insomma, non è un gioco di guerra ma un gioco di pace. Quindi voi insomma siete in attesa di capire, se il giudizio è sospeso, in attesa di capire in Parlamento. Senta, voi avete fatto partire ieri la campagna per il referendum, però sa che gli italiani dei referendum si sono un po' rotti, no? A votare. Mi pare che sia l'esatto contrario quello che sta avvenendo proprio in queste ore, tanto è vero che lo stesso governo, l'idea stessa che si debba fare un referendum, ha ipocritamente fatto marcia indietro già con il suo ministro Romani, con il ministro Prestigiacomo e con altre autorità di governo che fino all'altro ieri sbandieravano che il nucleare era duro e puro e oggi invece hanno preso atto che il nucleare rappresenta il passato perché molte altre fonti di energie pulite e meno dannose per oggi e per i prossimi 100.000 anni ci sono. Le nuove moderne tecnologie permettono tutto questo e ciò che è successo in Giappone, ciò che è successo in altre succede in altre parti del mondo ci fa capire che solo gli italiani andando a votare possono fermare un governo che guarda alla tasca di qualche lobby diciamo così imprenditoriale e non invece al bene dei cittadini. Ma a questo proposito vi hanno accusato anche di speculare sulla tragedia giapponese. Specula il governo sulla tragedia giapponese che un giorno dice che il nucleare è puro ed è sicuro e il giorno dopo dice che forse ci deve ripensare. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo raccolto le firme per il referendum l'anno scorso quando la Giappone non ancora avveniva il disastro che è avvenuto. Un nucleare quindi che noi riteniamo essere inutile con una prospettiva futuro, superato da tante altre tecnologie più moderne, dispendioso e pericoloso, specialmente in Italia sì. Dove da una parte è un territorio a forte rischio sismico e di terremoti, dall'altra potremmo sempre avere qualche matto che ci si butta con un aereo addosso e centrale atomica. Senta Di Pietro, per le amministrative si vota in 1500 comuni e lei ha denunciato il centro-sinistra non ha neanche accettato un candidato dell'Italia dei Valori. Ma allora siete ancora alleati col PD oppure poi alle cose pratiche questa alleanza non si vede? Anche se il PD ha ritenuto di far assumere responsabilità all'Italia dei Valori in almeno qualche comune, noi riteniamo che sia necessario in questo momento, nello spirito bipolare, costruire la coalizione e in questo senso fino all'ultimo giorno utile noi ci impegniamo e ci impegneremo, insomma, per ribadire, noi riteniamo che la coalizione PD di Busel sia la base per costruire un'alternativa di governo al governo Berlusconi e ai tanti governi di centrodestra che sono nel territorio e in questo senso il nostro impegno non è per la disunione ma per trovare maggiore unitarietà e se questo deve passare anche attraverso la rinuncia da parte nostra ad avere posti di responsabilità facciamo un passo indietro per il bene del paese e per il bene di quei comuni dove appunto i governi di centrodestra hanno portato una mala amministrazione. Sentiamo un Di Pietro remissivo, cos'è? Fa un passo indietro. Responsabile. Di una, e non disponibile come sono i disponibili in Parlamento. È che responsabili ce ne sono. Un posto, ce ne sono già troppi. Una parola, un valore. Alcuni parlamentari che hanno venduto l'anima e anche il portafoglio a qualcuno, e adesso, anzi a qualcuno, sempre a quello, e si fanno chiamare responsabili, quelli sono disponibili. I veri responsabili sono quelli che sanno dire no, sono quelli che sanno costruire una coalizione, sono quelli che vogliono lavorare nell'interesse dei cittadini e non per farsi le leggi per conto proprio, per qualche lobby pieno di conflitti di interesse. Di Pietro, l'ultima domanda è questa: un altro pezzo dell'Italia dei Valori, un'altra persona oggi sui giornali, Nicola Tranfaglia, abbandona il partito e è responsabile della cultura con un'accusa che non è la prima volta che sentiamo. L'Italia dei Valori è gestita in modo parentale dai soliti amici, in maniera troppo accentrata attorno a Antonio Di Pietro, e lascia il partito. Non è la prima volta che si sente questo tipo di accusa, Di Pietro? Sì, guarda, ho in questo telefono un sms del buon Nicola Tranfaglia, a cui voglio bene e rinnovo stima d'affetto, che mi chiedeva fino all'altro ieri, mi diceva: guarda, rinnovami il contratto, perché lui aveva un regolare contratto e gli pagavamo un regolare monumento, perché altrimenti se non mi rinnovo il contratto che è scaduto io faccio un articolo in cui dico male di te. Quindi voglio dire, quando si scade al tentativo di ricatto non si accettano compromessi. Pensa a mo' a 60 anni, dopo tutto quello che ho fatto, mi faccio ricattare da Tranfaglia. Va bene, la ringrazio, buona giornata per essere stato con noi. Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. E noi dopo la pubblicità parliamo allora dell'intervento militare in Libia, approfondiremo, cercheremo di capire. La domanda che facciamo nel nostro sondaggio è questa: temete ritorsioni per l'Italia per questo intervento militare? Votate su radio24.it come state già facendo in molti, per il momento prevalgono i sì con il 58%, oppure se volete intervenire in diretta 800 24 00 24. 24 mattino. Sono le 8:34 minuti, allora parliamo della situazione in Libia, parliamo di quello che sta succedendo, parliamo dell'azione militare e vi chiediamo nel nostro sondaggio: l'intervento militare in Libia, temete ritorsioni per l'Italia? Il numero per intervenire in diretta 800 24 00 24, ma il tema è quello del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora eccoci qui, detto che il 58% per il momento gli ascoltatori dice sì, temiamo ritorsioni in Libia, o meglio in Italia per quello che sta succedendo in Libia. C'è da dire che la prima operazione dei Tornado degli F-16 italiani si è compiuta ieri sera. Alle 20 sono decollati dalla base di Trapani Birgi, sono atterrati alle 22:20, dopo due ore e mezza dall'inizio l'atterraggio dell'ultimo velivolo in volo. Ovviamente lo Stato Maggiore della Difesa ha fatto sapere che i caccia hanno portato a termine la missione di soppressione delle difese aeree presenti sul territorio libico, ovviamente segreti gli obiettivi che non sono stati chiaramente svelati. Voglio salutare Paolo Ferrero, buongiorno, segretario di Fondazione Comunista, buongiorno Ferrero. Buongiorno a lei, ascoltatore e ascoltatrici. Allora, intanto, in attesa di capire se riusciamo anche a raggiungere il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto, che era tra i nostri ospiti insieme a lei, intanto voglio chiedere Ferrero, che ne pensa? Siamo in guerra? Ma direi di sì, nel senso che le azioni militari che sono in corso hanno poco a che vedere con quello che era stato annunciato, la no-fly zone, e hanno molto a che vedere con la distruzione del complesso delle infrastrutture militari, e non, forse non solo, nessuno credo sia in grado di controllare sul territorio, diciamo, la quantità di azioni militari che è in corso dice di una cosa che si chiama guerra in italiano. Si chiama guerra. No fly zone però vuol dire anche bombardare, Ferrero, cioè per fare una no fly zone bisogna prima, non so, distruggere per esempio la contraerea, altrimenti... No, ma io adesso non è che voglio contestare la congruità dei bombardamenti rispetto all'obiettivo. Io penso che l'errore stia nel manico, perché penso che l'ONU, invece che lasciar passare 3 settimane senza fare praticamente nulla e poi andare dietro alla Francia, alla Germania, che hanno guidato, diciamo, l'idea dei bombardamenti e dell'attacco, l'ONU doveva fare seriamente l'unica cosa che l'ONU è proposta a fare, e cioè sanzioni economiche molto pesanti da subito, e nello stesso tempo però intavolare trattative da subito tra le parti per tentare di trovare una soluzione. E invece non si è fatto nulla, prima hanno fatto il tifo per una parte, qualcuno per l'altra, poi sono stati a guardare come andava a finire, e poi come al solito, come in Iran, come in Afghanistan, avanti la logica militare è l'unica logica che pare essere presente tra la comunità internazionale. Io la considero un disastro, ma questo è. Però c'è anche una situazione paradossale, Ferrero, per la quale ora si registra una sorta di pacifismo, o se lo vuole chiamare non pacifismo, non interventismo, come lo vogliamo chiamare, insomma sbilanciato, per cui il Partito Democratico dice sì, attacchiamo, è giusto attaccare, a centrodestra invece, nella Lega per esempio, la sua posizione è molto simile a quella della Lega, no? Che dice appoggiamo l'ONU, non attacchiamo, cioè cosa sta succedendo? Un'inversione di tendenze, un'inversione di situazioni? No, in realtà la situazione attuale è molto simile a quella che già avvenne sul Kosovo alla fine degli anni 90, quando il governo D'Alema partecipò alle azioni di guerra sull'ex Jugoslavia, e lo schema era esattamente uguale, cioè il Partito Democratico, allora non si chiamava ancora così, ma insomma a favore della guerra, noi contrari, e la Lega in una posizione diciamo così intermedia. La Lega, secondo me, c'è un motivo oggi molto peloso per cui la Lega ha questa posizione, lo voglio dire con tutta chiarezza, che la Lega è stata uno dei principali sponsor di Gheddafi in questi due anni, perché Gheddafi ha fatto il lavoro sporco per conto degli europei e in particolare per gli italiani. Gheddafi ha preso i soldi dal governo italiano per ammazzare gli immigrati in Libia ed impedirli di venire in Italia. Quando dico ammazzare parlo di campi di concentramento fatti con i soldi italiani sul territorio libico. E quindi la Lega, diciamo così, teme molto che una situazione diversa che si possa aprire lì non abbia più quel grado di, diciamo, di favore e di fare il lavoro per conto terzi che richiederebbe invece, ad esempio, la cooperazione, perché lo stesso governo in cui sta la Lega, mentre ha trovato i soldi per i campi di concentramento da fare in Libia, ha praticamente azzerato i fondi della cooperazione internazionale, per cui non facciamo cooperazione internazionale, diamo i soldi per la repressione, appunto. Ecco, la Lega con Gheddafi questo legame stretto l'ha costruito. Allora, io devo dire, il 58% degli ascoltatori sempre è favorevole, teme queste ritorsioni per quel che riguarda l'intervento militare dell'Italia, anche dell'Italia, della coalizione internazionale, della comunità internazionale in Libia. Io voglio sentire cosa ne pensa qualche ascoltatore, siamo sempre in attesa, ma sono così, è il bello della diretta, si prendono gli appuntamenti, poi si interviene, non si interviene, si spengono i cellulari si tengono accesi, non si risponde. L'onorevole Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa, che aveva preso appuntamento con noi e che stiamo attendendo prima che alle 8.55 il nostro tempo scada come una mozzarella. William da Oristano, buongiorno. Sì, buongiorno, dica. Salve. Niente, innanzitutto volevo farvi i complimenti, io sono da poco appunto che ascolto la vostra trasmissione e vi volevo fare appunto i complimenti. Sì, niente, io il mio giudizio prettamente personale è questo, insomma io penso proprio che bisognerebbe stare attenti a delle ritorsioni appunto nei nostri confronti da parte di soggetti però singoli, ecco, io credo a questo. Dopodiché credo che l'Italia non abbia avuto una buona idea, diciamo, di entrare nel conflitto anche avendo appunto, mettendo a disposizione le basi, insomma, perché avrebbe potuto tranquillamente astenersi come ha fatto la Germania, proprio perché anche perché appunto abbiamo degli interessi su quel territorio. Capito, insomma. William, ma come fa a astenersi? Voglio dire, se lei legge retroscena dei giornali, cioè ci sono, la Germania è un po' distante dalla Libia, cioè noi abbiamo le basi in Sicilia, le basi su cui si appoggia, cioè come fai ad astenerti, concordo, per una guerra che ha poche miglia dalla costa siciliana con gli aerei che partono necessariamente dalla Sicilia, perché facciamo parte della NATO, no? Facciamo parte di quella coalizione. Beh, mi perdoni, come è intervenuta l'Inghilterra, appunto partendo dalle sue basi inglesi, credo che anche la Germania e gli altri paesi avrebbero potuto fare ugualmente. Insomma, ho capito, l'Italia... cioè ci chiamiamo fuori dalla NATO, cioè diciamo le nostre basi della NATO non le potete utilizzare, cioè non potete sorvolare, non so, non potete... Ah, guardi, io non perché voglia fare dire altro, insomma, aggiungere altro, però insomma... Anche l'Italia si è comportata nella medesima situazione nel secondo conflitto mondiale, insomma. Mm. Ecco, noi italiani abbiamo un po' questa tendenza a cambiare spalle, nonostante, cioè, abbiamo avuto anche dei rapporti molto stretti e amichevoli con la Libia, insomma. Sì. Io non cioè, so, questo sì, come dire, però nella seconda guerra mondiale abbiamo preso parte, comunque, anche noi. Abbiamo preso parte e poi abbiamo voltato parte. Voltato gabbana. Abbiamo voltato gabbana proprio perché... Insomma, quando le cose stavano andando male abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Va bene, grazie, grazie William. Voglio andare a Chieti da Massimo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, ascolti, io prima stavo ascoltando un attimino quello che diceva Paolo Ferrero per quanto riguarda l'intervento o per quanto riguarda soprattutto quello che avrebbe dovuto fare l'ONU. Ritengo sinceramente che se avessero semplicemente inserito delle sanzioni economiche probabilmente si sarebbe inasprita la condizione del popolo, ma non avrebbe assolutamente intaccato il dittatore, per cui è stato opportuno che si intervenisse in questo modo. È opportuno magari... l'intervento Beh, militare. Assolutamente sì, anzi credo che l'Italia avrebbe dovuto avere un ruolo più importante, quindi più decisionale, più vicino a quello che ha avuto la Perfetto, Francia. Molto chiaro, grazie Massimo. Voglio salutare, eccoci qua, il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto, onorevole Crosetto, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci, siamo in guerra, Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista che l'ascolta dice assolutamente di sì, siamo in guerra ed è una guerra giusta, le chiedo. Sì, adesso usare la parola siamo in guerra a me non piace, ma stiamo facendo un intervento militare in Libia, quindi potrebbe anche starci, in realtà siamo lì per far rispettare una risoluzione dell'ONU, la 1973, che autorizza l'uso della forza come si sta facendo adesso per due motivi. Il primo è la difesa della popolazione, quindi la difesa di quelle persone che stavano ancora ieri, ancora dopo il cessate il fuoco, i due cessate il fuoco che sono stati ieri, venivano massacrati dall'esercito di Gheddafi. E la seconda è l'instaurazione della no-fly zone. Quindi questo è l'obiettivo di quest'uso della forza, sono questi due. In teoria raggiunti questi due obiettivi l'uso della forza dovrebbe cessare, non è come è successo nel caso di Saddam, non è una coalizione che ha come obiettivo l'uccisione di Gheddafi come fu per Saddam, no, ha questi due obiettivi. Mm. Però voglio entrare subito dopo le informazioni sul traffico da lei, perché la danno tra i cosiddetti un po' più scettici di questo intervento. Sappiamo che all'interno della coalizione di governo c'è una Lega abbastanza critica, ma c'è una base anche del Popolo della Libertà un po' scettico. La mettono tra questi, ma subito dopo il traffico vorrei capire. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, sottosegretario Crosetto, su Repubblica ma anche sul Corriere viene dato, lei viene messo tra i più, insomma, tra quelli un po' più cauti in questo intervento. Stanno bombardando il paese da cui l'Italia dipende per il 14% del gas e il 26% del petrolio. Questa è una sua dichiarazione? No, questo è un pezzo di verità. Sì. Cioè, stiamo bombardando un paese da cui noi abbiamo una fortissima dipendenza dal punto di vista dell'energia, delle risorse per produrre energia, quindi ma abbiamo deciso noi stessi di far parte di questa coalizione, poi constatare che la Libia, che il primo partner della Libia era l'Italia e che quindi in questo conflitto, in questa azione, chi ha da rimetterci più di tutti è l'Italia, questo è una constatazione anche banale, mi consente, quindi significa essere scettico, significa dire se non fosse successo niente in Libia e Gheddafi avesse continuato invece sulla linea che l'Italia stessa gli fece intraprendere dal 2004 cercando di reinserirlo nella comunità internazionale, facendogli mollare gli armamenti, cioè facendogli cambiare l'atteggiamento verso i diritti umani. E cioè, se secondo me quella linea per noi probabilmente era molto meglio. Era molto meglio. Ferrero, lei cosa ne pensa? Adesso in questo momento Rifondazione è fuori dal Parlamento, voi votereste in ogni caso contro questa risoluzione dell'ONU che viene, che è quella che è la base legittimante di questo intervento militare? Sì, voteremmo contro perché per l'appunto ritengo che sia sbagliata e inefficace. Perché queste risoluzioni vengono fatte in nome della pacificazione, della difesa dei civili e quant'altro. La mia opinione è che un attacco di questo tipo in una situazione come la Libia rischia di dar luogo semplicemente a una guerra civile che può durare non lo so quanto, i livelli di rischio di allargamento del conflitto sono molto alti, anche perché a differenza di che cosa ci avevano raccontato, tanto la Lega Araba quanto l'Organizzazione degli Stati Africani non sono d'accordo coi raid. Io vorrei solo fare due considerazioni aggiuntive rispetto a cosa diceva l'ascoltatore che ha telefonato prima, perché uno è del tutto evidente che lo Statuto delle Nazioni Unite prevede che le nazioni che abbiano avuto o passati coloniali come l'Italia e quindi diciamo che siano stati impelagati in conflitti con la nazione in questione, non dovrebbero intervenire. Quindi l'Italia è in una condizione in cui a norma della Carta delle Nazioni Unite non dovrebbe intervenire. E secondo me la cosa che diceva l'ascoltatore prima, cioè che una nazione così vicina non dovrebbe intervenire nel conflitto, è assolutamente sacrosanta, non lo dovrebbe tanto più far l'Italia, di cui in Libia si ricordano perché con Graziani, diciamo così, li abbiamo gasati qualche tempo dietro. Però Ferrero, che dovremmo fare? Cioè, appunto, dico anche lei la domanda, cioè le basi a Birgi, a Sigonella, non le mettiamo neanche a disposizione? Perché sennò... Guardi che l'intervento non è un intervento della NATO. No, no, certo, ho capito. La Germania, che fa parte della NATO, non partecipa alla cosa. E io ho una posizione che è molto simile a quella della Germania, perché la cosa che dico è che l'Italia doveva, guardi, se lei fa la telecronaca, nella prima fase l'Italia è stata a vedere in qualche modo facendo il tifo per Gheddafi, qualche altro paese europeo è stato nella prima fase, ha fatto il tifo per gli insorti, ognuno pensando che si normalizzasse la situazione. Detta brutalmente, Crosetto ci dice giustamente che l'Italia ha una grande quantità di gas e di petrolio che oggi importa, o ieri importava dalla Libia, la Francia, la Total, è l'unica delle grandi compagnie petrolifere che non ha contratti in Libia, cioè, o non aveva. Si va per il petrolio, i francesi sono lì per il petrolio. Diciamo così che ci sono interessi semplicemente opposti e ognuno ha fatto in una prima fase il tifo per fazioni diverse, inutile non vedere questa cosa. Io penso che se invece che fare il tifo e poi stare a guardare e poi andare dietro a Sarkozy nell'intervento militare brutale, forse se si obbligava, come forse avrebbe fatto Andreotti, per citare uno che non è comunista, forse Craxi con qualche grado di autonomia si fosse intervenuti seriamente nel dire non solo le sanzioni economiche, ma provare a mettere, a fare discutere senza puntare che vincesse uno o l'altro. Insomma, era meglio secondo me. Secondo me si potrà fare. Sentiamo, adesso raccogliamo i cocci di una condizione mal gestita in cui l'Italia, di nuovo è vero, è passata dal sostanzialmente fare il tifo per Gheddafi, perché questo hanno fatto le dichiarazioni di Frattini, che all'inizio vergognose secondo me, alla situazione in cui la Russia ogni 20 minuti fa un comunicato stampa dicendo che c'ha gli aerei pronti per andare a bombardare, tant'è che c'è riuscito a farli andare ieri sera per conquistarsi un posto al sole. Vediamo che ne pensa. Sottosegretario Crosetto, si poteva non partecipare a questa guerra? A questo intervento militare? Ma guardi, io la penso diversamente sul fatto della vicinanza. Cioè, questo intervento intanto non è un intervento della NATO, ma perché è un intervento dell'ONU. Cioè, se vogliamo qualcosa di superiore dal punto di vista della rappresentanza del mondo, perché la NATO è l'Alleanza Atlantica, l'ONU ci sono tutte le nazioni del mondo, quindi ha una legittimità ancora superiore rispetto all'intervento della NATO. L'Italia non ha fatto il tifo per uno o per l'altro, l'Italia ha avuto dall'inizio una posizione molto più prudente rispetto a quella francese, molto diversa rispetto a quella francese, ma continua a essere diversa da quella francese. Vede, io ho detto più volte, forse per quello mi danno dei perplessi, che le parole di Sarkozy "andiamo a bombardare la Libia" di qualche giorno fa, dette senza alcuna legittimazione internazionale, non avevano alcun senso, dette da una nazione sola, ma perché non è quella la logica con cui il mondo dovrebbe muoversi. La Russia, se mi consente Ferrero, non ha cercato di mettere gli aerei per bombardare, anzi noi abbiamo cercato di partecipare a questa coalizione per portare un punto di vista diverso anche in questa coalizione. Non tutti gli stati hanno approcciato e approcceranno il problema Libia nei prossimi giorni con la stessa idea. La nostra è che questa risoluzione va fatta rispettare in quello che dice, cioè questa non deve essere la scusa per fare una guerra come è stato fatto in Iraq. Deve essere una cosa diversa, quindi uno dei motivi per cui noi partecipiamo è proprio questo. Un intervento limitato, diciamo. Ma se un intervento che avesse gli scopi che l'ONU ha definito. Il fatto di non partecipare per la Germania è facile, è un paese lontano, tutto sommato indifferente a quello che succede in Libia. Per noi è tutto è tutta un'altra cosa. Io mi devo fermare qui ringraziando il sottosegretario della difesa Guido Crosetto e Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Ci fermiamo con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Che dire, continuate a votare, seguiteci anche su Facebook, 24 Mattino è la nostra pagina, continua la discussione e la linea va a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domattina alle 7:20.